c'è una dimensione più collettiva che ognuno aiuta l'altro e sostiene l'altro, non è una cosa gerarchizzata e non c'entra praticamente niente il fattore commerciale, se non vabbè puramente la cosa dell'autofinanziamento che è quello che per forza di cose serve nel mondo in cui ci troviamo a vivere, però appunto non c'è questa logica appunto del profitto, del far suonare il gruppo perché comunque fa venire più gente, tipo quello che ha portato le cover band ad esempio. Né me lo aspettavo né non me lo aspettavo, però diciamo che è stata anche una cosa coreografica molto interessante. Della serie Capelli al vento? Esatto. E anche foto al vento.